noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Periodo abbiamo fatto vedere delle buone cose in alcuni momenti, poi in altri non ci siamo presentati come a Genoa contro la Samp, non ci siamo usciti dal campo al 70° contro la Roma, non ci siamo presentati il primo tempo contro l'Inter. Tutto questo il Milan non se lo può permettere. Io non sono d'accordo che il primo tempo con l'Inter non siamo entrati in campo, abbiamo cercato di fare una partita attentista perché per 95 minuti non saremmo stati in grado di fare quello che abbiamo fatto per 45 minuti. Io credo che sia un grosso vantaggio giocare, cioè un grosso pregio, anche se poi la partita l'abbiamo persa, giocare 70 minuti in meglio della Roma, che è arrivata a 25 punti in più di noi l'anno scorso. Abbiamo visto che qualità di gioco e che qualità di giocatore c'ha. Ieri con il Chelsea ha fatto una grande prestazione. Ovvio che noi tutti vorremmo vedere sempre il meglio per 95 minuti. Ognuno di noi ha un tempo nella vita e nel mestiere che facciamo, quindi non ce l'ha solo Mondella, ce l'ha il sottoscritto, ce l'abbiamo tutti. Sicuramente lui, probabilmente più di me, non è abituato a perdere, infatti ci scherziamo molto su questo, e sto facendo in qualche modo da mio amico farmacista fare una pillola per le sconfitte, così abbiamo tutti una visione un po' più chiara. Ma a parte questa battuta, c'è unione, c'è assolutamente la stessa visione. A parte l'amico farmacista, c'è unione, c'è la stessa visione, mi sembra un po' tanta roba dopo questo confronto dialettico. Vanno d'accordissimo. Sì, sembra il caso del giorno. 800 24 00 24, se volete parlate. Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio De Luca il nostro autore, Giovanni Capuano l'avrete riconosciuto, Pierluigi Pardo collegato. Ciao Pier. Ciao, come va? Molto bene, e tu? Molto bene, molto com'è bene. L'audio? Sei anche l'audio tu d'accordo perfetto. Come Mirabelli e Montella? Con me stesso io vivo al mio interno dello stesso dissidio che c'è in questo momento fra Mirabelli sì. e Montella. Impara a scrivere in italiano quando fai le dediche sul tuo libro, ok? Perché sennò devo fare il traduttore, sì. Tu sai a cosa mi riferisco. Ho tradotto. Marco Amelia, sì, buongiorno! Sì. Ciao, buongiorno a tutti. Andiamo d'accordo tutti, no? Siamo tutti amici come Mirabelli e Montella, ci vogliamo bene, è così? Noi sì, poi non noi so. Sì. E loro? Un po' meno? Loro... Ni. Non si riesce a capire bene, perché comunque tante volte questo tipo di chiarezza sembra ambigua, quindi bisognerebbe star lì dentro per capire e comprendere la realtà di quello che si è sentito ieri sera. Sì. Attraversano un momento di riflessione. No, ma standone fuori, la sensazione qual è? La sensazione è che non si prendano, ma probabilmente non si prendano da mesi. Cioè, a questo punto, anche tutte quelle voci sul fatto che non tutta la campagna estiva fosse pienamente condivisa, qualche concretezza ce l'hanno. Ma ce lo stanno dicendo loro, a parole. Beh, quindi giù dalla torre chi ci va? Secondo loro, signori ascoltatori, Mirabelli, Montella, poi Mirabelli, c'è un terzo che si chiama Fassone, allora decidiamoci, Fassone sta con Montella, Montella sta lì, non sta facendo risultati, anche ieri sera penoso lo 0-0 in casa con l'AEK Atene, non pregiudica niente in termini di classifica dell'Europa League, ma non è questo il punto, dopo tre sconfitte consecutive non giochi in quella maniera. E Mirabelli si lamenta prima della partita, Montella risponde dopo la partita, insomma il Milan è un casino, Pardo. Sì, il Milan è un casino. Io devo dire che ho sviluppato una forma di prudenza nelle cose di noi giornalisti, mi ci metto io per primo, nel senso che ci siano dei problemi in questo momento è inevitabile e sarebbe folle se pensare che, insomma, se non ci fossero sarebbe quasi preoccupante, nel senso che il Milan sta andando malissimo, diciamo la verità, e quindi c'è poco da girarci attorno. Tutti questi risultati, il Milan sta andando molto al di sotto delle aspirazioni della vigilia. Detto questo, non è che adesso ogni frase debba essere interpretata, secondo me, come se fosse definitiva. È chiaro che qualche dubbio in questo momento Mirabelli su Montella ce l'ha, e qualche elemento di fastidio Montella ce l'avrà avuto sicuramente per le parole di Mirabelli. Però, insomma, non è, cioè, da qui arrivare a un'interpretazione, diciamo, iperestensiva di quello che abbiamo sentito, secondo me si sbaglia, insomma. non è detto che Montella sia fuori gioco e secondo me non si deve esagerare. Il problema è che se il Milan sta scadendo il tempo, questo non c'è dubbio, sta scadendo il tempo per Montella per poter girare la ruota. Su questo non è chiaro, ma lo sa perfettamente anche Montella. Non è che stiamo interpretando, l'ha detto Mirabelli, sta che tutti hanno un tempo, non hanno una scadenza. Biologia. Mirabelli ha detto che c'è il tempo pure per lui, cioè non è che ha detto una cosa corretto. Il problema è che il Milan deve, cioè sul Milan bisogna capire che cos'è questa cosa. Ti ricordi la cosa dal punto di vista politico, no? Con la C maiuscola, sì. Che cos'è? Questo Milan in questo momento è abbastanza un'entità astratta. Marco Meglia ha vissuto quell'ambiente, è campione del mondo, ma non è inutile ricordarlo perché lo sanno tutti. Da fuori, Marco, che sensazione hai? Da fuori ho una sensazione che in quello che si è visto quest'estate non c'è tanta chiarezza, perché il Milan ha cambiato 13 giocatori praticamente, perché c'è anche un ragazzo della primavera in più in rosa, che è Cutrone. E forse la chiarezza è nell'obiettivo, cioè tu quando cambi così tante persone, è vero che hai speso tantissimi soldi, però poi vado a fare la media di esperienza anche europea e quello che hai preso è bassa rispetto alle altre, e già c'erano 4 o 5 squadre in Italia ben attrezzate, ben strutturate e comunque solide. Se tu come obiettivo ti dai il terzo posto mi sembra un po' eccessivo. Se tu come obiettivo ti dai il fatto di creare un gruppo, una squadra che possa lottare nell'arco di 3 anni, sperando di 2, nel posto in Champions, allora il tempo non scade. È quello che poi è la mancanza di chiarezza e di programmazione che poi magari loro ce l'hanno e cercano di fare anche, giustamente o no, non lo so, delle dichiarazioni che possono tenere a bada tutti, cioè tenere in calma l'ambiente. Però il Milan ha cambiato tantissimo, è vero che ha speso tanto, ma ha cambiato tantissimo, dei giovani, e ci vuole tempo per amalgamare tutto. Questo è vero, reale, corretto. Posso dirti che invece secondo me il Milan, dal punto di vista della comunicazione, io gli ho fatto gli applausi, glieli rifaccio, nel senso che comunque onestamente ha scelto la via della disintermediazione, ha parlato chiaro con Fassone, ha detto con chiarezza che questo è un all-in, che questo è un rischio in qualche modo che il Milan si è preso, cioè ha anticipato gli investimenti per velocizzare un processo, ha anche fatto capire che se non dovesse arrivare un posto in Champions League a quel punto ci sarebbe un piano B, che chiaramente è meno glamour, ma che comunque insomma non è che finisce la storia del Milan. E questo è la verità, è che però insomma, secondo me i giocatori sì, ci sarà stata anche un po' di sopravvalutazione di questa campagna acquisti, c'è sicuramente l'effetto dell'assemblaggio, però Bonucci era teoricamente il miglior difensore che potevano prendere, Biglia è probabilmente uno dei tre migliori centrocampisti che potevano prendere, ho fatto già due nomi decisivi, Kalinic c'è uno che ha sempre segnato, André Silva è un prospetto molto interessante, possiamo andare avanti per minuti, cioè adesso francamente arrivare alla conclusione che la campagna acquisti sarà sbagliata mi sembra veramente, cioè mi sembra no, però litigare hai detto, con quello no, che quindi, fino quindi, a 20. Hai detto allora, correttamente, quindi è un secondo Pierre, io faccio l'esegeta di Pierre, quindi giù dalla torre ci deve andare Montella, perché la campagna l'ha fatta Mirabelli, il Milan sta facendo dei risultati non in linea con le attese, inutile girarci intorno, non ha un'identità, è in ritardo probabilmente su quello che doveva essere il modulo, ha i leader in crisi, qualche responsabilità il tecnico deve averla, quindi l'errore sta lì. Io credo in realtà che ad esempio la strategia comunicativa chiara di Fassone dopo la sconfitta con la Sampdoria non abbia aiutato il Milan, l'abbia se possibile reso ancora più fragile, che è un ambiente anche dentro la testa, nervoso, perché voi vi ricordate con il Rijeka, non la EK Atene, che il Milan per la prima volta ha rischiato di non vincere una partita contro una squadra nettamente inferiore, cosa che fin lì era sempre successa. Io credo che una parte della crisi del Milan sia indotta, al di là degli errori di Montella, al di là dei problemi di assemblamento, è indotta dal fatto che ti chiami Milan, è indotta dal fatto che non c'è, è indotta dal fatto che non c'è una gestione, Pierre, cioè, è indotta anche c'è dal fatto che è una gestione sbagliata, c'è stata una gestione sbagliata. Allora, mettiamo ordine nel gruppo, traffico. Aspetta, io gliela devo dire, io ho capito che c'è l'all-in, la necessità di arrivare terzi o quarti, ma mi spieghi che senso ha se il tuo amministratore delegato la domenica sera dice che ha estrema fiducia nel tecnico, tre giorni dopo presentarti prima della partita, quindi neanche dopo, no, questo sono d'accordo, prima della partita, e di fatto esonerarlo in diretta come ha fatto ieri sera Mirabelli. Allora fermiamoci per il traffico, fermiamoci per il traffico. Marco Meglio resta con noi, questo forum è estremamente interessante, per me vale quanto ha detto. Allora io seguo Marco Meglio, ci vuole tempo, però siamo tutti d'accordo sul fatto che quello del Milan in questa stagione è un all-in, quindi ci sarà anche un piano B, sono stati spesi molti soldi, bisogna rientrare, ci sono degli interessi da pagare, bisogna pagare l'affitto e le bollette, signori, come facciamo noi a casa, come fa la casalinga di Voghera. Traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Allora proviamo a tirare le fila del discorso. C'è Marco Meglio con noi, Giovanni Capuano con me, Pierluigi Pardo qui con me. Come avete sentito, si dicevano diverse cose sull'argomento Milan. Dunque, progetto nuovo, troppi giocatori nuovi, probabilmente un Milan che non ha una faccia. Marco Meglio, tu parlavi di tempo, e il tempo ci vuole, e Montella dovrebbe averne, qualunque allenatore dovrebbe averne per mettere insieme un gruppo così eterogeneo, così nuovo, però serve anche un'idea precisa, che mi sembra non ci sia. Il tempo non c'è perché il Milan sta giocando, e qui ha ragione Pardo, uno all-in, o si qualifica per la Champions League Milan, quest'anno, ma anche perché vediamo. Il Milan, sì, per l'all-in senz'altro, ma anche perché il Milan si chiama Milan, e quello che stiamo vedendo in questa prima uscita non è all'altezza. Cioè, bisogna riconoscere le cose, perché sennò uno... Poi che la pazienza, che la pazienza sia una virtù, sì, somma, non c'è dubbio, non, che nel calcio italiano ce ne sia poca, esatto, pure. Non, no, fa parte di questo mondo, soprattutto se hai messo così tanti quattrini. Che Montella sia oggettivamente un bravo allenatore per quello che ha dimostrato negli anni è indiscutibile, però è altrettanto indiscutibile che siamo a metà ottobre e la tendenza della squadra non è una tendenza al miglioramento. No, è una grande sfida. Marco? Sì, no, ma ha detto bene Pierluigi. Purtroppo la squadra è in evidenti difficoltà di risultato, ma secondo me anche di costanza, perché poi ha detto anche bene Montella, ha fatto a momenti di gara delle ottime cose, e poi in alcuni momenti è andata in tilt generale. E la partita con la Roma è un esempio, fai bene per 8 minuti, poi in 10 minuti si rovina una partita comunque che era stata fatta bene. Il derby praticamente... buttato per mezz'ora abbondante, e poi fai 60 minuti, se non 50 minuti fatti alla grande. Quindi hai ragione Mirabelli, Marco. No, è che quando parlo di tempo, è che è trovare l'equilibrio anche in queste piccole cose non è facile. Veramente, secondo me, ci vuole molto di più di quello che è stato fino ad ora. Ma il tempo è per tutti, e ha detto bene Mirabelli, anche se forse avrei evitato di farlo prima della partita, avrei evitato di farlo in generale. Il tempo è per tutti, la società è cambiata negli uomini, è cambiata forse è rimasta nell'allenatore, ma è cambiata anche nei giocatori, che poi sono la parte che va in campo e la parte che deve seguire bene, amalgamarsi per poi far vedere le idee che ci sono di Montella e comunque una filosofia societaria. E in questo momento anche il discorso che forse dopo la Sampdoria qualche dichiarazione si poteva evitare, perché la comunicazione nel Milan, come dice Luigi, qui si parla di Milan, bisogna farla bene, bisogna stare attenti e pesare ogni parola, perché ogni parola può essere fondamentale. Io ho vissuto i tempi di Berlusconi e Galliani, e la comunicazione aveva un peso non indifferente, e a noi dello spogliatoio ci faceva stare tranquillo questo tipo di situazione. Quindi tante volte forse è meglio evitare di buttare lì cose che sai che possono portare strascichi in un ambiente che è fatto di milioni e milioni di tifosi che ci tengono tantissimo ad un club che è tra i migliori al mondo. Quindi anche su quello probabilmente qualche errorino è stato fatto, però anche su queste cose diamo tempo al tempo. Il problema è che le partite passano, i punti di distacco sono tanti, però ora secondo me sacrosanto Marco, tempo al sacrosanto, tempo al tempo, ok, però quanto hai detto tu è fondamentale. Forse il Milan non lo ha, questo lo esatto, quello che hai detto tu è fondamentale, cioè Berlusconi, Galliani, la comunicazione, a noi quella situazione faceva stare tranquilli. Il Milan è sempre stata una società estremamente organizzata, avevi chi ti pagava le bollette, non dovevi andare tu in posta, visto che prima parlavamo di bollette. Hai un problema, te lo risolvono, comportati bene, fai il giocatore, al resto pensiamo noi, questa è l'organizzazione della società. Un'altra battuta con Marco Ameglia prima di salutarlo. No, guarda che bella squadra. Che bella classe. Stiamo guardando che bella una fotografia. Classe. Tutti com'è andare a scuola con Chivu, Mancini, Camoranesi? Aspetta, che fammi riconoscere gli altri. Otto. Com'è? Toni Cassetti. Palombo. Sì. Vai, Galanti. Com'è? Beh, è bello perché comunque fai intanto un corso importante. Io personalmente non è che ho deciso di smettere, però c'era l'occasione del corso. Perché tu non hai smesso. Tu non hai smesso, sei ancora un giocatore di pallone. Non ho smesso, però quest'estate mi sono anche divertito tanto a rifiutare, quindi avevo richieste che non volevo prendere in considerazione. Forse anche provocato da questo corso qui che c'è in questo periodo, che ti fa aprire la testa, ti fa aprire la mente. Veramente il settore tecnico verciano sta facendo delle ottime cose sulla preparazione degli allenatori, soprattutto a questo livello di corso, e è bello farlo insieme ai miei compagni di squadra, giocatori con cui ho condiviso i campi, i spogliatoi della nazionale e anche qualche titolo mio caro, mi pare che insomma tu Camoranesi avete qualche ricordo in comune, se non ricordo sì, anche con Luca, con Toni, Sandir, certo. Però ecco, la cosa bella è che quando fai un corso, diciamo sei a scuola, perché noi facciamo 8 ore di lezione al giorno, poi facciamo un'ora d'allenamento anche la sera, perché ci manteniamo anche a livello di allenamento, e sei in 9 con il professore, con il docente poi della materia che viene, è interagire per 8 ore parlando di calcio, parlando di psicologia, parlando di comunicazione, parlando di metodologie di allenamento, parlando di medicina, perché poi un allenatore deve sapere anche come è fatto il corpo umano, per la prevenzione di infortuni, alimentazione e tutto. È veramente una roba che secondo me uno dovrebbe fare 18 anni prima di iniziare la carriera. Tu sei sarrista o allegriano? Sarrista o allegriano? Come ti immagini? Beh, ho avuto Max Allegri 4 anni ed è un grande allenatore. Ci sono? Però Sarri sì. È bello da studiare e da vedere. Ne parliamo in quel momento lì. È che tante volte non bisogna essere sarrista o allegriano, tante volte bisogna saper far andare al meglio, scegliere al meglio in base anche alla squadra che hai, ai giocatori che hai, alle caratteristiche che hai. Allegri questo è bravissimo, Allegri questo è bravissimo. Sì. C'è da dire che è molto flessibile. Sono bravi tutti e tre, ragazzi. Quelli lì sono bravi tutti, ragazzi. Cioè, non è che Sarri è bravo, Allegri è bravo, Spalletti è bravo. Assolutamente. È molto bravo. E ma la forza di questi allenatori insomma, è che hanno cambiato qualcosina del loro pensiero iniziale, proprio perché in base alla squadra che si sono trovati da dover allenare. Questo è sintomo di grande intelligenza. E cambiare tante volte, qualcuno in passato pensava se cambio è perché sono debole. No, se cambio è perché voglio la squadra più forte, perché ho l'umiltà di capire che cambiando qualcosina la squadra va più di quello che può dare. Corretto, appoggio, sposo questa teoria, l'ho sempre sostenuta. Beh, la capacità del cambiamento, la capacità di aprirsi al cambiamento è decisiva, è fondamentale in tutte le cose della vita, su questo non c'è dubbio. Poi, insomma, secondo me quando la coerenza ovviamente parlo di un metodo di gioco, non parlo della coerenza dei valori di una persona, ma la coerenza del metodo di gioco diventa invece un andare a cercare sempre la stessa strada. È chiaro, certo, diventa cogiutaggine e diventa integralismo. Grazie Marco, bocca al lupo, ci sentiamo presto. Keep in touch. Grazie, un abbraccio. Ciao. Allora, ciao. Parliamo con Giovanni da Matera, Alessandro da Milano, prima della borsa. Giovanni, buongiorno. Vai. Buongiorno a tutti gli ospiti. Dica. Niente, io volevo fare una considerazione. Bisogna anche ammettere che è vero che sono stati spesi i soldi, però hanno preso la strada, tra virgolette, più difficile, sia Fassoni che Mirabelli, cioè di adottare da subito, pur avendo gente che magari non manco si capiscono l'un l'altro a livello di lingua nel campo, di scegliere la strada più difficile, e cioè quella di giocare in attacco. Per me è da considerarlo un fatto positivo da milanista, cioè, quello di pensare come mentalità, che se no prendevano un allenatore, diciamo tra virgolette, scarso, e metteva dietro come ha fatto Conte l'altra sera contro la Roma, fa il contropiede. Aspetta un attimo, mettiamo ordine in questo mare magno. Scarso e Conte nella stessa frase. Forse aveva ragione Raiola, Donnarumma doveva cambiare ambiente, scrive un ascoltatore. Vabbè, qui vale tutto, però ragazzi, che vuol dire questo? Allora, bisogna giocare in difesa perché si rischia di meno, ha sbagliato tutto. Io questo discorso non lo capisco, che vuol dire? Ma no, c'è confusione, sarà perché ti amo, direbbe lì. No, c'è confusione vera, nel senso che si sono cambiati i moduli, si sono cambiati i giocatori, si sono cambiate continuamente gerarchie. Cioè il polso della squadra nasce da una capacità che un allenatore ha di governare le situazioni. E questo non sta succedendo. Poi Milan, è vero, Montella ha ragione, ha anche un po' di sfiga, perché il derby ad esempio è una partita che poteva finire sicuramente con un risultato diverso. La partita con la Roma, è vero che nel secondo tempo il Milan stava giocando almeno allo stesso livello della Roma, però insomma adesso sono passati due mesi e mezzo e cominciano ad essere un po' troppe queste situazioni. E poi queste partite qui si uniscono a Genova, a Lazio-Milan, che sono state due partite dove il Milan è stato messo sotto pesantemente, certo, dal punto di vista anche del gioco. Quindi, Milan non è una squadra matura, mi pare che non è una squadra adulta. Non tornino, ma sì, non mi pare una squadra adulta. Cioè, gioca con grande foga a tratti. Non mi sembra abbia un'idea precisa. Mi sembra che Montella, un po' di aretta alla società, difesa 3, difesa 4, un po' di aretta al suo istinto. Non ha ancora scelto quali giocatori. Insomma, mi sembra tutto una gran confusione in salsa rossonera. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno, allora Dica. In questa confusione io volevo provare a mettere un attimo d'ordine con un'idea. Ma la prego. Allora, Borucci ha scompaginato i piani, ovviamente, benissimo, c'è il leader, però la squadra deve giocare con la difesa 4, con tutto quello che sappiamo. Allora io dico, torniamo alla difesa 4, con al centrale Musacchio e Romagnoli, che erano quelli che dovevano essere, e spostiamo 10 metri in avanti Borucci, così ci teniamo il leader e lo facciamo giocare come Pirlo. Centrale di centrocampo come Pirlo si era inventato alla faccia per ridurre la confusione, No, beh, ma l'idea è interessante, magari per la parte finale della carriera di Bonucci. Io continuo a pensare che Bonucci sia oggi un grande difensore con dei piedi da centrocampista, ma è un grande difensore, il Milan ne ha bisogno lì. Non capisco il ragionamento, è anche interessante la suggestione, è un po' il discorso di David Luiz, no? Cioè di un giocatore che parte da dietro, ma siccome in qualche circostanza, stiamo parlando veramente di un amico, l'ho salutato anche l'altra sera, è un giocatore di straordinaria foga, di grande agonismo, di buoni piedi, ma con qualche amnesia, David Luiz negli anni ha giocato non solo la centrale ma anche la centrocampista, certo, come l'altro giorno contro la Roma. Sì, ma puoi fare queste cose con una squadra che funziona, Bonucci. Puoi fare queste cose Bonucci e serve il miglior Biglia, cioè questi qui sono due giocatori, anzi Biglia, sono i due giocatori che sono stati presi, che cioè, molti altri erano dei prospetti sicuramente, su Çalhanoğlu ci poteva essere qualche dubbio, su Andre Silva sicuramente le qualità ci sono, ma è un giocatore ancora giovane. Acerbo, certo. E quei due sono due giocatori che ti devono fare la squadra. Allora, faccio sempre il notaio, 14:29, 53 secondi, siamo in ritardo sulla borsa, state qui ragazzi. Pier, un attimo, dobbiamo fare la schedina con Giovanni, sì, sì. È un momento caldo, sì, sì. Poi andiamo sui motori, si scrive tutto. Come fa il superiore? Punteggio? Sì, sì, cosa non dice? C'è problema. Non ricordo il punteggio. Credo 4-1. Credo 4-1. Allora diciamo le cose, su. È lunga, hai ragione. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Mi manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, ciao Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao, ciao Carlo, ciao Giovanni. Tra poco apriamo la pit lane di Racing Team, però prima Pierluigi. Sì. Ti sei nascosto? Ci sei ancora? Eh? Vergognati. Ma 4-1 con Capuano. Gente, che cos'è? 4-1 con Capuano. Lo so, ma è lunga, dai. È ottobre. Sì, è ottobre, ma il tassametro corre. Ho bisogno di tempo. Tutti abbiamo bisogno di tempo. Va bene, io faccio Mirabelli. Esatto. Il tempo può scadere, eh? Sì, vabbè. Andiamo, andiamo con la schedina. Smetteremo di fare questo giochino. dai, andiamo. Aspetta, che c'è? Che c'è, Giovanni? La prima è Samp Crotone. Stai partendo sbagliato. Vabbè, io vado a dico quello che voglio. Vado anche a random. Va bene? Devo andare in ordine? Vai. No, vabbè. Io sono un disordinato. Va bene, San Crotone, faccio il bravo. San Crotone, domani, ore 18. Chi parte? Uno. Ah, uno, dai, uno anche per me. Va bene, va bene. Poi cosa devo fare? Napoli-Inter, la volete subito? Napoli-Inter 1, dai, Napoli-Inter 1. X. X. Torino-Roma. Sai, forse volevo mettere 1 a Napoli-Inter. No, decidi, eh. 1-1-1-1-1. Cosa? 1 e Torino-Roma 2. 1 e Torino-Roma 2, va bene. 2 pure per me. Ok, torna indietro domenica, perché Torino-Roma è alle 15 domenica, alle 12.30 Chievo, Verona, derby, derby di Verona. Chievo-Verona X. 1. Atalanta-Bologna 1-1. Benevento-Fiorentina 2-2. Milan-Genoa X. 1 X. X. E lui vuole giocarsi l'esonero di Montella lunedì sera a tiki-taka, capito? Vuoi il sangue? Vuoi il sangue di Montella? Io gioco per lo spettacolo. Ma gioco che spettacolo? Tocca a lui. Tocca a me, sì. Ah, che c'è? Cambi discorso? Se cambi discorso io vado avanti. E vuoi il sangue di Montella? Ho detto X, se pareggiano è chiaro che lunedì è casino, no? Qui come a tiki-taka. Va bene. Questo registriamo. Ma adesso faccio il provocatore. Mi pagano per questo. Spalzasuolo. Spalzasuolo X. X. X. Udinese Juventus domenica ore 18. 2. Domenica 20:45 Lazio Cagliari. Tra l'altro Lazio che ieri sera ha vinto, cioè anche a Nizza, cioè. Dai, abbiamo due risultati diversi, forse tre, perché c'era quel Napoli-Inter che andrebbe messo subiudice. No, 2-2 e pareggeremo, e pareggeremo perché vuole fare il fenomeno. Sì, poi domenica, tanto lunedì ne parliamo, registrate il pronostico di Pardo su Milan-Genoa, registrate. Vabbè, ho capito, ho detto X, amico, ho detto... ma X, ma sai cosa vuol dire Milan-Genoa? Non è che è una cosa banale, Milan-Genoa X, viene, cioè è chiaro che domenica sera io e Capuano siamo qua a parlare, in tutti convocati weekend, siamo qui a parlare dell'esonero di Montella e del prossimo allenatore del Milan. Ciao, yeah. Ciao, ti voglio bene. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, apriamo la pit lane. Yes. Racing Team. C'è anche Leo Turrini, ragazzi, qui non si scherza. Buongiorno. No, non ho capito. Cos'è che non hai capito? Ma avete fatto la schedina con un tono talmente, voglio dire, da obitorio, che io vi chiedo, ma è venerdì, avete già calato la saracinesca e volete che ci sta ascoltando tutti i convocati prima dell'arrivo mio di Ungaro? Cambi canale, c'era Pardo che sembrava Weinstein di fronte a... No, era concentrato, Leo, era concentrato, è sotto pressione come Montella, siete come Chimi. La miglior trasmissione radiofonica dell'ultimo trentennio e fate questi 5 minuti da mortorio. Ma capisci, è l'attenzione... Allora, una notizia, da Lapero Corbano. Dica. Dove sono in coda, lo sapete che domani sera, sabato... le prove ufficiali, qualifiche del Gran Premio del Texas ad Austin vengono rimandate di 2 ore e saranno disputate quando in Italia saranno le 23 e non le 21. Voi mi chiederete perché c'è un ritardo di 2 ore? Perché c'è un ritardo di 2 ore? Ufficialmente perché c'è un concerto di Justin Timberlake, che è stato un mio nipotino, un mio figlioccio, eccetera. In realtà non è a cantare ai 21, ma nel suo impianto di amplificazione alcuni aggeggi tecnici, condotti, candele, eccetera, li aveva portati a Ferrari, di loro. E quindi Timberlake è costretto a esibirsi in ritardo e le qualifiche slittano quando in Italia è mezzanotte. Ma vi rendete conto? Ma svegliate Pardo, fa la schedina, Ho capito, che Cassano non gioca più. Allora esponiti. Allora esponiti. Napoli-Inter, fammi un pronostico. Napoli-Inter? Oh, questo mi interessa molto, come tu ben sai. Beh, allora diciamo non tergiversare. Non tergiverso, tecnicamente Napoli di caratura. Non tergiversare, dammi un segno, dammi un sì. 1x2. Di Santon. 1x2. 2-2. Hai capito. 2. Quando Ungaro, quando Iannone vince il primo Gran Premio? Così facciamo felice Torrini? Bisogna, secondo me nel 2000 è un po'. Il problema è non si sa con quale moto, forse non con Suzuki. Comunque si è lamentato Iannone, Leo, nonostante abbia fatto un sesto e un settimo nelle prime prove. Migliora piano piano, lo abbiamo visto migliorare sull'acqua, ma sai che sull'acqua non si può mai dire quanto è l'effettivo valore. Però qui sull'asciutto, sesto e settimo, eppure si è lamentato. Dice che da Valencia lui dice quali sono i problemi, ma non sono stati risolti. E quindi io credo che queste lamentele del fortissimo Iannone ci facciano capire che sta arrivando. Il problema è che la stagione ormai è finita e quindi siamo costretti a rimandare la celebrazione di questo straordinario fuori classe, come direbbe sempre Belen, al 2018. Però caro Ungaro, tu mi devi dire, Dovizioso, Marquez, inutile che ci giri intorno, che fai del cinema. Per una perché volta stai dormendo anche tu come Pardo, dimmelo. Che no, solo, assolutamente no. Io ho una trasmissione di assonnati. Ti prevenivo, no, siccome so che tu vai a chiedermi di Annone e di Belen. Ma certo. Infatti, la celebrazione che dicevi prima, cos'è? Del figlio o di lui che si afferma? È incinta, no, sai che si dice. Ma torniamo a essere seri, Leo. Se tu conosci anche i test di gravidanza di Belen, è la conferma definitiva che sei il più grande cronista delle due ogni epoca. Mai esistito. No, io adesso... Come fa a sapere che Belen è incinta? Adesso io chiedo aiuto a Capuano, che è la parte saggia di questo programma. Chiedo aiuto a Capuano perché, cioè, domenica si corrono due gran premi. Capuano, Raikkonen è fedele alle sue peggiori tradizioni. Certo, lui è anti-Raikkoniano dichiarato. Domenica abbiamo due corse, una delle quali timbra il decesso sportivo della Ferrari in questo mondiale. Prego, Sua Maestà. E l'altro invece deve dirci se ci trasferiamo tutti a Forlì, a casa di Marino Bartoletti, alla fine del mondiale, a vedere Dovizioso che si affaccia dal balcone. Da cui l'ultima volta che si è affacciato qualcuno era un certo signore che si chiamava Mussolini. Io voglio sapere da Roberto Ungaro quanti punti di vantaggio deve avere Dovizioso prima di andare a Valencia per vincere il mondiale. Quanti? Perché deve farli in due gare. Allora, adesso sapete che c'è Philip Island, che è favorito, dove è favorito Marquez, purtroppo. La Ducati non è mai andata bene, mai veloce su questa pista, però il Ducati di quest'anno con Dovizioso potrebbe regalare delle sorprese. E quindi firmiamo per cosa? Dalle prove... Per allora, cosa firmiamo? Primo Marquez, secondo Dovizioso si può firmare? Sì, si può firmare. Si può fare? Philip Island. Invece Malesia potrebbe invertirsi le parti. No, non sono d'accordo. La cosa positiva è che Dovizioso è in palla, di testa c'è e ci vuole provare anche su questa pista dove non è mai riuscito. Deve, certo che deve. Perché noi non vogliamo il ragionier Dovizioso, vogliamo il professor Andrea. Bravo, non vogliamo più istinto, cioè Marquez e ragione Dovizioso, ma vogliamo i due istinti, bravo, che se ne diano. Bravo. E ultimamente Andrea ha fatto vedere che proprio ci sa fare, perché con quel sorpasso all'ultimo giro, replica della gara austriaca, ha infilato e Marquez in un modo strepitoso. Quindi adesso Marquez sa che l'ha duro, il confronto è duro con uno come Dovizioso. Comunque nelle prove anche a noi non lo sa. Attenzione, dai che mi svegli Leo. No, Turrini, adesso mentre c'è sono il traffico. Ragazzi, cosa devo dire qui? Ungaro sta ciurlando mentre nel c'è... manico. Vogliamo sapere se Dovizioso può battere in Australia Marquez. Non ci devi stare questo, a fare questi ha detto discorsi. Che firma per il secondo posto, Leo. Calcoli dei punti. Tu ci devi dire, ce la può fare o no? Sì, però qui è più forte Marquez. Dove può essere davanti è Malesia. Allora no! Guarda che qua in coda sono appena Cormano, tutti hanno tirato il finestrino e dico chieda Ungaro che sa tutto, persino la gravidanza di Belen, ce la fa, ovvio no, ce la fa, ma io ti ascolto e dico, ma sto Ungaro sembra la Sibilla Cumana. È molto dura. Esprimere l'oracolo di Delfi un verdetto. Quello che ti dico, Leo, è che sono a 5 millesimi, uno dall'altro. Marquez è davanti e Dovizioso subito dietro. Ci sono 5 millesimi. Quindi sarà un confronto a due anche per questa gara. Molto Lorenzo bene, ha dei problemi. È un indietro. Battito di ciglia di Miss Belen Rodriguez. Traffico, ragazzi. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Certificato dalla signoria del traffico. Ci scusiamo, per, scusiamo per la ripetizione. Fides Lapero Cormano in direzione Venezia. L'unica consolazione che abbiamo io e tutti quelli qui in corso, Lapero Cormano, è che dalla voce ci sembrava che questa qui di traffico eccetera sia la cugina di Belen. Non so se voi siete in grado di indagare, perché se non altro quando siamo bloccati sentiamo questa voce che ci dice cosa sono appena formato. Tra l'altro è stata bravissima, ha detto come se parlasse delle candele Ferrari che si rompono, come sempre coda sulla Pero Cormano, come sempre la Ferrari romperà qualcosa anche in Texas, ecco, come sempre. E poi Capuano, te lo prendi tu lunedì. Ma Capuano tanto pensa che sia Kimi Raikkonen che soffia sulla candela, che la smorza, certo. Perché lui chiaramente è di parte, hai capito? Ma anche tu sei di parte, quando finirà questo campionato tireremo una bella riga e faremo i conti. Tira la riga, va, non mi far parlare di righe, che prima sentendo la vostra schedina ho pensato male, quindi lasciamo perdere. Eravamo tutti addormentati. Abbiamo una bella notizia invece. Benevento Fiorentina, uno ha detto due. Ma ragazzi, ma siete in onda, vi ascolta l'Italia, Quindi? Anche Renzi sul treno si sta ascoltando, capito? Allora, quindi? Cercate di essere un attimo. Ma la schedina è un momento. Ma guarda che, ma no, io non posso fare niente. È un momento molto sentito, dai ragazzi. Qua. Ma allora facciamo la schedina del Gran Premio di Phillip Island e del Gran Premio del Texas. Bene. Moto e Formula 1. Andiamo. La notizia qual è? La notizia, e abbiamo già visto che era veloce nella gara del Giappone, Aprilia nell'F2 davanti a tutti, e Spargarò il più veloce. E questo è vero che non è la gara, però l'Aprilia sta sempre più venendo fuori e non bisogna nasconderlo, bisogna dirlo e sottolinearlo, perché è un made in Italy che comunque a livello di prestazioni c'è. L'altra notizia invece è che Lorenzo ha problemi con la moto, non c'ha stabilità anteriore, non c'ha invece aderenza posteriore, forse correrà con la vecchia carena, se quella senza ali, avete presente? Sì. E Valentino è invece molto molto dietro, è tredicesimo, quasi un secondo nell'F1. Questa è una non notizia. Esatto, e dodicesimo con 752 millesimi di ritardo nelle F2. Quindi Valentino gara in salita, Vignales un po' più veloce, sull'asciutto la Yamaha ha risolto i problemi, però sapete che a Phillip Island il tempo è molto mutevole, molto variabile, quindi è possibile la pioggia, staremo a vedere. Bene, allora, adesso vi faccio sentire a stretto giro di posta in un unico contenitore, Marquez e Dovizioso, e poi facciamo la schedina di Phillip Island e del Texas. Qui è un circuito dove mi piace, è un circuito dove da solito è andato un po' più forte che per esempio Motegi, ma vediamo, perché penso che Andrea sì che... Pure qualcun anno è stato un po' in difficoltà qui, ma questo anno lottando per il mondiale c'è questo extra motivation, extra confidence, e questo ti fa andare veloce. Motegi è stato un weekend anomalo, tutti i tour in sottolacco, comunque abbiamo tutti e due dimostrato di essere sul pezzo, siamo pronti per giocarcela perché siamo stati veloci tutto il weekend e siamo quelli che abbiamo fatto la differenza in gara. Però a parte questo, adesso bisogna vedere che condizioni troveremo qui a Phillip Island, che il meteo comunque condiziona tanto le prove il weekend. È una pista molto diversa, molto non facile, e sappiamo che Marquez è molto veloce. Uno contro l'altro guardandosi negli occhi, mentre il professor Bartoletti di Fede Incrollabile ci dà appuntamento in piazza Aurelio Saffi, sottolinea Forlì, se dovesse succedere. Adesso voglio sentire se Turrini e Ungaro mi fanno una schedina più divertente rispetto a quello che abbiamo sentito. Volevo ringraziarvi a nome di tutta la gente in coda su Lapero Cormano, perché quando avete detto che Spargarò ha fatto il miglior tempo c'è stato un boato. Tutta la gente con i finestrini abbassati ha detto: oh, meno male che ci possiamo rilassare e restare qui incolonnati, e Spargarò miglior tempo. Eh beh, fa dell'ironia, fa dell'ironia. È l'Aprilia, Leo, è l'Aprilia, è l'Aprilia. Sono un uomo Aprilia, sì, sì, assolutamente. Allora, Philip Island, il mio pronostico è primo Dovizioso, secondo Marquez e terzo Iannone. Sentiamo Roby. Secondo me Marquez, Dovizioso e Vignales. Questo anno tu che la scrivi sei abituato? Marquez, Dovizioso, Pedrosa. Questi i pronostici, registrate signori, registrate. Quindi, quindi se Marquez arriva primo vince il titolo, non andiamo in piazza Aurelio Saffi a Forlì e devi, io voglio andare a, a Valencia, prendo il biglietto anche per Turrini e voglio andare a Valencia a vedere la corsa Valencia dell'anno. Tutti facciamo una, andiamo in camper, tutti convocati dal camper. Allora, dato che abbiamo ancora un minuto, pronosticone schedina del Texas. Allora, ammesso che la corsa parte in orario, perché Justin Timberlake montando degli amplificatori, tutti i ciappini Ferrari, può darsi che sia ancora lì che canta all'ora della gara, un po' in ritardo, io dico primo Verstappen, secondo Vettel e terzo Raikkonen. E il Moro? Beh, qualche volta può darsi che quel famoso meteorite della pubblicità lì, pronostico da tifoso, ha detto Raikkonen sul podio, può anche succedere. Roberto? Io dico Verstappen, Vettel e Hamilton. Hamilton, Bottas, Vettel. Mi farmi arrabbiare Turrini. Beh, un finlandese, un finlandese capace di salire sul podio ci sarà. Tranquillo, adesso, adesso ci penso io a Capuano. Non ti arrabbiare. Carissimo, un finlandese capace di andare sul podio ci sarà. Non me lo farò arrabbiare, Capuano. Ma cosa vuoi che dica con questo Capuano? Ormai ho rinunciato a qualunque tentativo. Uno che ha approfittato di tutti i convocati per farci credere che la Ferrari doveva prendere Hülkenberg o questa gente qui può dire qualunque cosa. Io Capuano per me è libero come Renzi su Banca Italia, può dire quello che vuole. Ragazzi, tanto ci sentiamo, come si chiama, Focus Economia, a mettere in ordine un po' di cose, capito? Ci sentiamo, ecco. ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao Leo Torrini, Roberto Uncaro, Giovanni Capuano, Giorgio Luca, Trottore, Gianmarco Ferronati, regia domenica ore 17:19, tutti convocati weekend con Capuano sottoscritto. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.